Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno, buona domenica, bentornati alla finestra sul cortile. Il terrore corre sulla spiaggia. Sono passati 35 anni da quando quella pinna terrificante apparve all'orizzonte di Long Beach e ancora adesso, ogni volta che la rivediamo, proviamo lo stesso brivido, la stessa scossa di adrenalina, ma anche lo stesso divertimento. Era l'estate del 1975 e lo squalo ipnotizzava le platee americane e di tutto il mondo. Era l'inizio di una nuova era del cinema, il film di cassetta per l'estate ideato su misura per un pubblico balneare. Ne parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile con un famoso critico cinematografico, Roberto Escobar, ma parleremo anche dei giovani immigrati musulmani e di come si stanno sempre più assimilando ai loro coetanei occidentali ed europei, anche quando si tratta di fidanzarsi, di cercare una moglie o un marito. Ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il nostro sommario di oggi. Inghilterra, anche i giovani musulmani si incontrano e si fidanzano online, alla faccia del fanatismo religioso. Abu Dhabi, arabi alla ricerca delle ninna nanne perdute. Visti dagli altri, Los Angeles, giovanotti in concerto, ma per pochi intimi. America, c'era una volta Lo Squalo, il primo blockbuster estivo. Perù, dipingere le montagne di bianco, un'idea per salvare i ghiacciai. America, I write like, un sito per scoprire a quale scrittore somigliamo. Io non sono intelligente e istruito come te, ma sono tuo padre. Kasim, ascolta, puoi passare tutta la tua vita insieme a loro e per loro resti sempre un pakistano, uno straniero. Senti, non lasciare che una bianca si metta tra di noi. Ti butterai in mezzo a una strada, si troverà un altro uomo. E i nostri valori, la nostra cultura, la nostra religione, senti tua madre, noi siamo i tuoi genitori e moriremmo per te, faremo di tutto per te, sei il figlio maschio, sei il nostro futuro. E allora impara a rispettare le mie scelte, è solo questo che ti chiedo, rispettate le mie scelte, le rispettiamo, ma tu questo non lo capisci, vero? La dovete incontrare, si chiama Roshin, parlateci, conoscetela, lo farete. Senti, te lo chiedo per l'ultima volta. Tu non me lo stai chiedendo, papà, tu me lo stai imponendo. Lo hai fatto per tutta la vita. Era una scena di Un bacio appassionato, un film del 2004 diretto da Ken Loach e che racconta il dramma degli immigrati musulmani in Scozia, la storia di due appunto figli di immigrati degli anni 60 che vivono la contraddizione, insomma, tra il rispetto della tradizione nella loro famiglia e il desiderio invece di scegliersi di vivere liberamente la propria vita, il proprio futuro. E proprio a proposito di integrazione dei musulmani, soprattutto in Inghilterra, è uscito un interessante articolo sulla rivista inglese New Humanist. L'articolo è firmato da Theodore Dalrymple, che è lo pseudonimo di un importante psichiatra inglese, e il titolo è Fun Loving Muslims, cioè musulmani che hanno voglia di divertirsi. E quello che ci racconta Dalrymple in questo articolo è che nei siti di appuntamento online, cioè quelli dove ragazzi e ragazze si incontrano e si scambiano informazioni per eventualmente fidanzarsi o sposarsi, si scopre che in realtà la cultura e gli ideali, il modo stesso di esprimersi di queste nuove generazioni sono molto simili a quelle dei loro coetanei occidentali o europei o britannici. Dice sono, come dice Dal Rimpel, sono superficiali come tutti i ragazzi, e fa l'esempio della Francia, in cui secondo i sondaggi un quinto ormai dei giovani musulmani si sposano con rito civile, e che non considerano più la conversione dei loro partner come una condizione per celebrare il matrimonio. Ma è soprattutto quello che è interessante sono appunto le caratteristiche di questi giovani che si incontrano online, il fatto che parlino di sé così, con come si esprimono i giovani occidentali. Dice sono, per esempio, uno di loro dice: sono un uomo rilassato che sa essere sarcastico, un grande senso dello humor, posso anche essere infantile a volte, però quando è il momento so anche diventare serio, mi piace andare fuori a cena, andare al cinema, giocare a bowling o a cricket. E per quanto riguarda la religione, dice sono abbastanza religioso e mi sto sforzando per diventare un five timer, cioè vuol dire uno che prega 5 volte al giorno come prescrive il Corano. E anche il corrispondenti femminili di questi siti, molti di loro dicono di non portare il velo e dicono I'm a fun loving woman, cioè sono una ragazza che ama il divertimento. Certo, il divertimento, commenta Dal Rimpel, c'entra ben poco con il fondamentalismo. Ecco, ma intanto diamo il benvenuto al nostro ospite. Buongiorno Yahya Pallavicini. Buongiorno. Yahya Pallavicini è imam della moschea Al-Waid di Milano e vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana, nonché consulente del ministro dell'interno Maroni proprio per i problemi dell'integrazione dell'Islam. Ecco, la sorprendono queste rivelazioni sui costumi delle giovani generazioni immigrate, Pallavicini? Ma mi sorprende, devo dire, in positivo soprattutto l'analisi che ne fa Theodor Dal Rimpel, ecco, perché è particolarmente onesta, anzi direi che lui stesso poi mi sembra concludere l'articolo sul fatto comunque di mettere quasi a confronto o proporre come confronto per i lettori da un lato la coerenza con una certa onestà intellettuale e dall'altro lato le difficoltà o i problemi che possono venire dall'ipocrisia o dall'integrazione. Ecco, insomma, soprattutto quando integrazione è intesa in un senso di secolarizzazione che può essere artificiale o per convenienza e quindi ipocrita, o un processo psicologico di autocolonizzazione. Ho l'impressione che certo è un po' complessa l'analisi che fa, ma mi sembra molto ben fatta per far capire in poche pagine come le nuove generazioni di musulmani, che prevalentemente vengono anche da genitori di prima generazione di immigrati, che sia dal sud-est asiatico o dall'area indo-pakistana o dal Mediterraneo o dal Medio Oriente o dall'Africa, c'è questo gap, c'è questo dibattito intergenerazionale, che però, se posso dire, è una cosa che forse in Europa abbiamo già visto anche tra chi era più conservatore e chi era più progressista, quindi sì. I figli che reagiscono per una emancipazione dai valori tradizionali. Ecco, sì, le volevo citare però un libro che è uscito adesso in America di Ayan Hirsi Ali, che, come sappiamo, è una intellettuale islamica che combatte per i diritti delle donne musulmane, troppo spesso umiliate, maltrattate in famiglia. Purtroppo abbiamo anche spesso dei casi di cronaca drammatici da questo punto di vista. E lei sostiene in questo libro che l'Islam è una religione retrograda, incompatibile coi diritti umani, quindi anche con la libertà delle giovani generazioni. Beh, ma lì il problema è che esiste una lettura e una interpretazione, appunto, dicevo prima, iperprogressista, laicista e modernista, che ha come grosso limite quello di demonizzare, senza molto conoscere, tutto ciò che sia religioso, e quindi associare alle degenerazioni dei fanatici o degli estremisti o dei maschilisti tutto ciò che è religioso, ed è una prospettiva molto, molto sbagliata e molto anche superficiale, proprio perché bisognerebbe invece saper distinguere tra ciò che è religioso ed è coerente ed è intellettualmente onesto ed è un valore aggiunto per il pluralismo sociale in qualsiasi confessione, e i casi estremi di individui che sono maschilisti, fanatici o violenti, e che purtroppo sono presenti in tutte le famiglie, dove purtroppo nell'Islam sono ultimamente a volte più ricorrenti, ma sono degenerazioni che andrebbero combattute, isolate, insomma, dalla stessa comunità alla quale lei appartiene. Beh, noi ringraziamo Yahya Pallavicini, buona giornata, buona domenica e a presto. Grazie a lei, buongiorno. E restiamo nell'ambito del mondo della cultura musulmani, andiamo in Abu Dhabi. Sulle pagine del Daily Star, quotidiano libanese, apprendiamo che appunto un gruppo di musicologi finanziati dal governo dell'Abu Dhabi stanno in qualche maniera perlustrando i paesi islamici in cerca di ninne nanne e di canzoni per bambini. Secondo i fondamentalisti islamici, gli ambienti più conservatori, soprattutto dell'Arabia Saudita, la musica è un'arte che andrebbe proibita, che è contraria allo spirito islamico. Forse queste persone, più che di una ninna nanna, avrebbero bisogno di una sveglia. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani famosi all'estero ci porta questa domenica a Los Angeles, dove Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, cantante, cantautore, rapper italiano, si è esibito in un locale notturno della città californiana, la Viper Room, in una jam session con 7 suonatori italiani, americani e brasiliani, più una rapper cilena, Ana Tijoux. E secondo il Time Out New York, questa serata memorabile è stata un po' come vedere Bruce Springsteen in un cabaret. La finestra sul cortile. È la colonna sonora del film Lo Squalo, titolo originale Jaws, Fauci, diretto da Steven Spielberg, un film del 1975. La musica è di John Williams. E di questo film, un vero così una pietra miliare, potremmo dire, nella storia del cinema, parla un articolo del Financial Times firmato da Nigel Andrews, che è intitolato La nascita del film di cassetta dell'estate, The Summer Blockbuster. Perché dice questo? Nel 75, quando fu lanciato Lo Squalo, il cinema d'estate era considerato un momento di stanca, bassa stagione, perché la gente pensava, per l'appunto, ad andare in spiaggia a fare attività all'aperto. Certo, esistevano i drive-in, però insomma l'idea di chiudersi dentro una sala al buio a guardare un rettangolo con delle scene in movimento era considerato un'attività prevalentemente invernale. Invece con lo squalo l'idea dei produttori hollywoodiani era quella di attirare il pubblico balneare a vedere uno spettacolo legato, insomma, a quella che era un po' la loro esperienza di vita in quel momento, insomma, lo stare sulla spiaggia, l'essere terrorizzati da qualcosa, da una pinna che spuntava in mezzo al mare, quindi la gente che si metteva a fuggire, insomma l'adrenalina sotto l'ombrellone. E questo colpo di questo film, che ebbe un successo straordinario, poi indusse Spielberg a replicare il successo con altri cattivi giganteschi come il tirannosauro di Jurassic Park, ma anche per esempio i nazisti di Indiana Jones. Fu l'inizio, insomma, di una stagione, di una nuova stagione del cinema in cui il film estivo è diventato, insomma, un sinonimo di successo, per cui si è passati attraverso Star Wars, Die Hard, Batman, eccetera, insomma, fino a Top Gun, Independence Day, tutti i film, insomma, usciti nei mesi estivi. E c'è addirittura in questo articolo del Financial Times una classifica dei primi 5 blockbuster estivi che hanno avuto in ordine di incassi. Il primo è The Dark Knight, episodio di Batman, uscito nel luglio del 2008, che ha fatto 533 milioni di dollari di incasso. Segue Star Wars, il quarto episodio, con 460 milioni di dollari di cazzo, poi ancora Shrek 2, E.T. e Star Wars, il primo episodio, La minaccia fantasma. Ma intanto abbiamo al telefono un ospite che salutiamo, Roberto Escobar. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi, Roberto Escobar, critico cinematografico del domenicale del Sole 24 Ore. Ma allora, tra questi 5 che vengono elencati, qual è il suo preferito di blockbuster estivo? Sì, l'espressione blockbuster è un po' vaga e anche ambigua, perché... Ecco, sì, perché qui vengono accomunati film un po' di qualità diversa, no? Sì, diciamolo, il blockbuster è il film pensato in America per l'estate, perché poi da noi arriva più tardi, Quindi noi li vediamo in settembre-ottobre, quelli che in America sono blockbuster estivi. E in ogni caso la sua funzione è quella di vendere di più. Però non si può fermare qui, perché Top Gun, modestamente, secondo me è una gran porcheria, e invece Lo Squalo è stato ed è un grande film, un film che ha segnato davvero una svolta nella storia del cinema. Oppure prendiamo quello più recente che ha incassato di più, Il Cavaliere Oscuro, così si intitolava in Italia, di Christopher Nolan. È un film che da un lato è molto spettacolare, e quindi per quel pubblico di adolescenti che si suppone che vadano al cinema d'estate, perlomeno così si legge in questo articolo che lei ha citato. D'altra parte però è anche un gran film, pieno di riferimenti addirittura filosofico-politici, per esagerare, ed è costruito molto bene, scritto benissimo, quindi io distinguerei nella grande categoria dei blockbuster. Ecco, qui in questo articolo si parla anche, insomma, di quelli che saranno i blockbuster della prossima stagione. Tra questi, insomma, c'è il filone dei vampiri. Ecco, come mai questo Twilight, che adesso è già arrivato al terzo sequel, insomma, come mai questo successo di questa saga vampiresca? Ma il vampiro va via come il pane, per parafrasare un'antica battuta di un comico italiano, nel senso che ogni tanto ricompare, e ricompare sotto le spoglie più diverse. Non sono un entusiasta di Twilight in nessuna delle sue edizioni, però capisco, è il brivido, c'è dell'erotismo più o meno nascosto, forse meno nascosto che più, c'è paura, diciamo che è un evergreen dell'immaginario cinematografico, quindi non mi stupisce, così come non mi stupisce che si provi a rilanciare il successo di Shrek, il quale però di episodio in episodio è sempre meno fresco. E appunto, questi sequel non rischiano poi di annoiare alla fine? Anche qui distinguerei. La ripetitività, insomma. Sì, anche qui distinguerei. Un vecchio blockbuster estivo è stato il Batman di Tim Burton, di Tim Burton, che è stato un grande film. Poi Tim Burton ha replicato, ha fatto un altro grande film, poi ci sono stati due o tre brutti film finché Christopher Nolan con il Cavaliere Oscuro non ha rilanciato. Lo ha risuscitato in qualche modo. Sì. Ecco. Succede che ogni tanto si incontrino degli ottimi sceneggiatori, degli ottimi registi e rifiorisca, così capita anche per i vampiri, non è il caso di Twilight secondo me. Bene, ringraziamo Roberto Escobar, allora buona domenica, buona estate e a presto. Anche a voi. Dipingere le montagne di bianco salverà i ghiacciai? È quello che si chiede un articolo della rivista online francese Agora Vox, che riferisce di un progetto finanziato dalla Banca Mondiale per la bellezza di $200,000 e che consiste nel ridipingere una parte del Chalon Sombrero, una montagna di 4.750 metri in Perù, da parte di una equipe di scienziati capitanata da un certo Eduardo Gold, che ha già ridipinto 2 ettari di questa montagna con una pittura non inquinante fatta di bianco d'uovo, acqua e calce. L'intento è quello appunto di frenare il riscaldamento globale. Negli ultimi 30 anni il ghiacciaio del Chalon Sombrero ha perso il 22% della sua superficie. Insomma, dopo la marea nera, la montagna imbiancata. Non si potrebbe trovare qualche idea migliore? Scrivi come Hemingway o come Stephen King? A quale scrittore famoso assomiglia il vostro modo di scrivere? È quello che ci chiede un sito che si chiama I Write Like. Il sito è ivl.me. E in pratica si tratta di scrivere un brano in inglese, un brano di almeno un paio di paragrafi, e la risposta è automatica, il sito vi dirà a quale scrittore assomigliate. Beh, io ho provato a inserire un brano di Dickens tratto da Tempi difficili e la risposta sapete qual è stata? Scrivi come George Orwell. Ora, Dickens è vissuto tra il 1812 e il 1870, Orwell è uno scrittore del Novecento, l'autore di 1984. Evidentemente a Write Like non ci azzecca sempre. E per oggi è tutto, ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Filippo Aureggi in regia, Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buona domenica e buona settimana a tutti.